giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Una rissa dei contorni ancora tutti da chiarire ha visto fronteggiarsi a Lignano decine di giovani. La peggio l'ha avuta un ventenne di origini albanesi finito all'ospedale in coma. Sospese le ricerche sui monti di Villa Santina di due giovani torelli scappati dal loro recinto, forse impauriti dai lupi, impegnate decine di uomini e un elicottero. Una siccità così sul Casso Triestino non si vedeva da 30 anni. Nelle vigne alcuni agricoltori hanno già sospeso le irrigazioni, altri si salvano con l'acqua di un invaso. Le tradizioni della montagna sappadina innervano il programma dell'offerta turistica della località montana. Un vocabolario illustrato, italiano, inglese e ucraino, per venire incontro alle esigenze dei giovani profughi. Lo hanno approntato due insegnanti a Pordenone. 40 anni fa l'Italia vinceva il campionato del mondo di calcio battendo allo stadio Bernabeu di Madrid la Germania per 3-1, una vittoria che ha avuto per protagonisti friulani Berzot e Dino Zoff. Alle 7:19 minuti e 14 secondi di lunedì 11 luglio, un cordiale buongiorno da Livia Liberatore Armando Mucchino a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. La pagina del tempo in apertura, cielo sereno, poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 6. Trieste 19,5 gradi, vento che soffia 27 km orari da est nord-est bora, mare poco mosso con temperatura di 23,5 gradi. Anche Udine Pordenone 19,5 gradi, Gorizia 18, Tolmezzo 16,5 gradi, Piancavallo 12, Forni di Sopra 11,5 gradi, Tarvisio 9 gradi, Sappada 7,5 gradi, in quota sullo Zoncolan 9 gradi e sull'Ussari 8,5 gradi. Tornando sulla costa, Legnano è grado 21,5 gradi, con temperatura del mare a 23 gradi. Le previsioni dell'ARPA regionale per oggi: al mattino il cielo sarà in genere sereno con borino sulla costa, in giornata poco nuvoloso e venti a regime di brezza, mentre sui monti sarà possibile maggiore nuvolosità di pomeriggio. Al confine con il Cadore non è del tutto esclusa la possibilità di qualche locale breve e debole pioggia pomeridiana. Cronaca in apertura, ancora da chiarire i contorni esatti della rissa che nella notte tra sabato e domenica a Lignano ha visto un giovane albanese finire in terapia intensiva a seguito delle ferite riportate in una rissa. Siamo avvicinati per vedere che cosa stesse succedendo e ci siamo accorti che la questione era più grave del previsto, perché c'era un gruppo molto ampio di ragazzi, ma cinquantina, settantina, che si stavano menando, soprattutto un gruppo contro uno solo. Si stavano lanciando bastonate, calci, pugni, sassate, e quindi abbiamo pensato che l'unica cosa possibile che potevamo fare era chiamare i carabinieri. È in coma il ventenne residente a Udine di origini albanesi, coinvolto nella rissa Lignano Pineta, a poche centinaia di metri dalla discoteca che al momento del fatto, dopo le 5 del mattino, aveva chiuso da circa un'ora. Intubato sul posto per grave trauma cranico, il ragazzo è stato elitrasportato all'ospedale di Udine, dove è in prognosi riservata. Picchiato a mani nude e con bastoni, era riverso per terra nei pressi dei giochi per bambini. Ancora da accertare le cause, è stato un suo amico a attirare l'attenzione dei carabinieri, sollevarlo e portarlo fino all'ambulanza. Una rissa del genere non l'ho mai vista, così tante persone, cioè proprio la situazione era fuori controllo, diciamo. Non so niente di sta cosa qua, lo sa solo la guardia notturna, che dopo mi ha detto c'è stato una colluttazione. Sull'asfalto al mattino ancora le macchie di sangue. Al momento della chiusura, ci dice il gestore di un bar nelle vicinanze, c'era un folto capannello di giovani che bevevano sulle panchine. I bidoni dell'immondizia, spaccati da giovani ubriachi, aggiunge, sono una costante dei fine settimana. Alla luce delle lesioni riportate, l'azione penale procederà d'ufficio. Ci sono alcune baby gang che nei fine settimana si spostano dall'entroterra a Lignano. Vogliamo arginare l'insediamento di questi gruppi, afferma il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi, annunciando la convocazione di un comitato con i rappresentanti dell'ordine pubblico. Lignano Sabbiadoro, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Sospese per il momento le ricerche dei due tori scappati lunedì scorso dalla loro stalla di Imbillino, frazione di Villa Santina. I due esemplari, due giovani torelli di razza limousin, sono stati individuati nella zona di Verzegnis, in un'area di boscaglia dove è difficile recuperarli. Dunque anche l'elicottero dei vigili del fuoco, che era stato impegnato ieri nella ricerca, è rientrato alla base. Le operazioni ricominceranno solo se ci saranno avvistamenti o segnalazioni. L'allarme era scattato lo scorso lunedì quando il proprietario della stalla si è accorto che i due animali avevano divelto il recinto ed erano fuggiti. Sul terreno la forestale avrebbe individuato le impronte di lupi, quindi è possibile che i tori siano scappati per paura. Intanto la loro fuga ha creato una certa apprensione. Hanno 8 mesi, ma pesano 3 quintali ciascuno. Siccità record per la provincia di Trieste. Sul Carso triestino è la peggiore degli ultimi 30 anni. Molti viticoltori hanno rinunciato a irrigare i vigneti, mentre qualcuno ha a disposizione l'acqua di un invaso artificiale. Sentiamo. Gli agricoltori dell'area del Breg, nel comune di San Dorligo della Valle, stanno irrigando gli uliveti e i vigneti anche in questo periodo di siccità. Sono gli unici sul territorio che possono permetterselo, perché l'acqua viene attinta dal serbatoio costruito dal consorzio di bonifica della Venezia Giulia subito dopo la batosta del 2003, quando il periodo da maggio a luglio è stato ancora più secco rispetto ad oggi. Rado Koziancic, olivicoltore e viticoltore. Pesca l'acqua in via Traunig, sotto l'autostrada, con 2 pozzi di più di 30 metri, dunque fanno praticamente quasi a livello del mare. L'acqua viene pompata in cima alla collina, in questo serbatoio di 1000 metri cubi, dal quale per caduta viene a irrigare tutti i nostri terreni. Quanta acqua c'è ancora in questo serbatoio? Ma questo serbatoio è sempre pieno, in quanto l'acqua, man mano che se la consuma, viene pompata dalla falda, dunque per adesso non c'è nessun minimo problema di mancanza di acqua. E quanto si potrà andare avanti così? Non lo sappiamo, in quanto è la prima volta che usiamo in quantità così elevate. Comunque in teoria l'acqua qui sotto non mancherà, per adesso speriamo anche avanti nei anni futuri. È un brutto periodo per il Breg, ma anche per il Carso. La piovosità da gennaio ad oggi nella provincia di Trieste ha registrato accumulati molto scarsi e da record negli ultimi 30 anni. Molti viticoltori sul Carso per ora hanno scelto di non irrigare i vigneti, anche se le piante stanno già subendo l'impatto delle temperature alte e dell'inverno con precipitazioni scarse. Non se la passano bene nemmeno gli allevatori nell'area di Doberdò, dove le mucche bevono il doppio dell'acqua, oltre 40 litri al giorno, e a causa della siccità l'erba che mangiano ha un apporto scarsissimo di nutrienti. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. I dati diffusi ieri dalla regione riportano come con l'ultimo report in Friuli Venezia Giulia siano state accertate 1.162 positività al Covid da 5.244 tamponi, di cui 86 da 1.215 tamponi molecolari e 1.076 da 4.029 tamponi antigenici. Si è registrato un decesso a Gorizia. In terapia intensiva sono ricoverate 6 persone, 178 negli altri reparti. L'incidenza su 7 giorni per 100.000 abitanti è pari a 1.004. Da inizio pandemia in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 417.698 positività, mentre i decessi sono stati 5.182. Oggi si terrà un confronto tra la Direzione Centrale della Salute della Regione e i sindacati dei medici sulla chiusura delle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale nate dall'inizio della pandemia per l'assistenza domiciliare alle persone malate da Covid, che sono state sostituite, le USCA a livello nazionale, dalle UCA, unità di continuità assistenziale, che prevedono però compiti più ampi. La Federazione Medici di Medicina Generale ha proposto di prorogare le USCA almeno fino al 31 dicembre in virtù delle ripresa del numero dei contagi e della particolarità della popolazione del Friuli Venezia Giulia, con una considerevole parte di persone anziane. Il sindacato SNAMI attacca: cessate le USCA, permane la disorganizzazione, dicono. C'era tutto il tempo per istituire un nuovo servizio domiciliare per i pazienti fragili, ma a distanza di 10 giorni è ancora tutto fermo. Una donna di 72 anni residente ad Azzano Decimo è morta ieri a causa di un malore nei pressi di Casera Mela a Erto. La stazione Valcellina del Soccorso Alpino è intervenuta poco dopo le 12 su chiamata della Sores. A nulla è valso l'intervento tempestivo dell'elisoccorso regionale nei tentativi di rianimarla. Il medico ha dovuto constatare il decesso. La donna stava compiendo un'escursione tra Cava Buscada e Casera Mela assieme al marito quando si è sentita male. Dopo l'autorizzazione del magistrato sono intervenute le pompe funebri. Voltiamo pagina e parliamo di Sappada, che punta sulle tradizioni del passato per irrobustire l'offerta turistica del presente. Panorami, tradizioni e gastronomia, questi gli ingredienti di gustosa Sappada, Un festival della montagna che ha portato nel centro delle Dolomiti friulane tanta gente, anche da oltre confine. Una seconda edizione incentrata sulle tradizioni, declinate sotto ogni aspetto. Monica Bertarelli, direttora Consorzio Turistico. Oltre 5.000 piatti offerti ai nostri ospiti tra Sappada e Forniavoltri, 20 espositori lungo il sentiero numero 5 a Sappada, ma soprattutto tanti tanti turisti, molti dei quali per la prima volta arrivati a trovarci. Tante le proposte enogastronomiche con menù a tema. Fabrizia Meroi, chef stellata. In questo caso abbiamo pensato alla Zoo, che è proprio questo nostro storico, di 8 portate, che quindi sono inclusi degli antipasti, delle paste, una vellutata che è tutta composta con delle erbe, delle carni e anche dolci. Un percorso pieno di iniziative è quello della strada silvopastorale che domina la vallata, affrontata dai turisti a piedi o con una navetta del consorzio per raggiungere le baite. Veniamo da Padova e siamo venuti qui a Sappada a passare un weekend insieme con gli amici, così bella giornata, si sta bene, bella festa qui. E ho approfittato per portare il mio bimbo piccolo di 3 mesi, perché Sappada è perfetta per i bimbi piccoli. Ma non solo turisti, c'è chi ha deciso di festeggiare l'addio al nubilato in quota. Io sono una grande amante della montagna e le mie amiche hanno deciso di portarmi qui. Quindi sono triestina. Ma non solo anziani agricoltori e custodi delle tradizioni, ma anche giovani che hanno deciso di continuare sul solco del passato, impegnando il periodo del lockdown in maniera costruttiva. Mattia Pochero. Avevamo tutti giovani coscritti in Sappada, ci hanno detto perché no, ci siamo messi qua e in 2 mesetti, tutti i giorni, ce la siamo passata, diciamo, in questo brutto periodo che abbiamo vissuto. Sappada, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia venga istituito un consolato onorario della Repubblica Armena, a chiederlo all'ambasciatore accreditato a Roma, il presidente dell'Associazione Culturale di Udine Zizernak, La Rondine, Daniele Temresian. Associazione che tra i suoi scopi statutari ha anche quello di diffondere e rafforzare lo spirito e l'identità armena in Friuli Venezia Giulia. Temresian, a sostegno della richiesta, riporta come ad oggi in regione siano 20 consigli comunali che, si legge nella missiva, hanno riconosciuto la verità storica del genocidio degli armeni e come nel 2021 anche il Consiglio regionale abbia approvato all'unanimità la mozione per il riconoscimento del genocidio del popolo armeno. Come venire in aiuto ai giovani profughi riparati in regione dall'Ucraina? Ci hanno pensato a Pordenone 2 insegnanti che hanno elaborato un primo ebook distribuito gratuitamente a scuole ed associazioni. È un vocabolario illustrato in italiano, inglese e ucraino. Questa scuola noi si chiama scuola. Questo maestra, vchitel. Un vocabolario illustrato in italiano, inglese e ucraino per l'inclusione dei bambini ucraini arrivati in Italia. Il progetto parte da Pordenone, dall'idea di 2 insegnanti, Chiara Vergani e Sara D'Andrea, che hanno elaborato un primo ebook distribuito gratuitamente a scuole e associazioni, Migrazione Editore, e che sarà seguito da una serie di altre pubblicazioni, tra cui una dedicata alle fiabe e una alla musica. Spiega Vergani. È un progetto che si compone di diversi ebook, libri digitali di facile consultazione. Il primo è già stato pubblicato e ha preso il nome proprio dal progetto e si intitola A scuola con noi. È un ampio vocabolario illustrato con la traduzione in italiano, inglese e ucraino. Della traduzione si è occupata Liubov Tokarenko, mamma ucraina che vive a Pordenone e che ospita un bambino con la sua mamma fuggiti dalla guerra. Racconta. Sono ucraina e so come è molto difficile imparare lingua italiana e quando mi maestra Chiara ha detto tu posso aiutare per fare questo vocabolario per bambini vostri, nostri e anche altri? Io ho detto sì perché io so come questo è molto importante per tutti. Io ho visto bambini preoccuparti perché questa altra lingua, loro hanno paura. E il desiderio, dice, è sempre quello, di tornare a casa. Speriamo che questa guerra già finiscano, perché molti nostri persone vogliono andare a casa. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. un valore della produzione in crescita che si attesta a 43,9 milioni di euro, un utile netto di oltre mezzo milione di euro. Sono i risultati raggiunti da Astercoop, realtà nazionale che opera nel settore della logistica con sede legale a Udine, i cui soci hanno approvato il bilancio 2021. Eletto anche il consiglio di gestione che ha confermato nella squadra di governo Claudio Macorig in qualità di presidente, Paolo Toffoletti vicepresidente, Patrizia Cavallo e Annalisa Soldà consiglieri. La commercialista Giulia Nogherotto è stata riconfermata revisore legale dei conti. Dal clima al disarmo nucleare, dal ruolo degli scienziati nel consigliare le decisioni politiche alla discriminazione nella ricerca scientifica, argomenti di stretta attualità al centro del simposio internazionale in programma da oggi a Trieste per celebrare il centenario dell'Unione Internazionale di Fisica Pura e Applicata, l'organizzazione internazionale che rappresenta la comunità globale dei fisici, un simposio a cui partecipano scienziati da tutto il mondo, tra cui anche 4 premi Nobel. Ce ne parla il professor Sandro Scandolo dell'ICTP di Trieste. Avremo molti ospiti internazionali, più di un centinaio, forse il più prestigioso è il premio Nobel Bill Phillips, che sarà qui a parlarci di metrologia, cioè quindi la scienza che sta dietro alle unità di misura. Poi avremo anche un scienziato americano che ci parlerà di un problema molto pressante, che è quello di cosa i fisici fanno per proteggere, diciamo, gli armamenti nucleari, per evitare la proliferazione. E poi l'altro momento importante della giornata sarà l'intervento del presidente dell'Accademia delle Scienze Ucraina, il professor Zagorodny, conseguenza del fatto che abbiamo ammesso come UPAP l'Ucraina come membro dell'associazione, quindi ci racconterà brevemente quello che è la situazione della scienza e dei fisici in particolare nel suo paese. Ci parlerà anche di clima, avremo Tim Palmer da Oxford che ci racconterà di quelli che sono gli sforzi degli scienziati non solo nello studiare gli effetti dei cambiamenti climatici, ma anche si parlerà anche molto di come la scienza, i fisici, gli scienziati possono trovare modi migliori per passare queste informazioni, quindi per dialogare con la politica. Ci saranno anche scienziati dalla Russia? Ci sarà anche il vice direttore di un centro internazionale che si trova a Dubna in Russia, che peraltro è vicepresidente dello UPAP. Lo UPAP stesso, in una dichiarazione che ha fatto qualche settimana fa, ha chiarito che è importante tenere le porte aperte agli scienziati di ogni paese. La scienza avanza solo se si tengono le porte aperte, quindi è importante proprio in questo momento difficile, da una parte ovviamente accogliere la scienza ucraina, che in questo momento ha terribilmente bisogno di aiuto, ma dall'altra anche non dimenticarsi che bisogna tenere le porte aperte alle scienziati di tutto il mondo che vogliono incontrarsi e parlare di scienza, proprio per andare oltre questi enormi problemi che stiamo vivendo invece a livello politico. In questi giorni la società autostradale sta completando la riverniciatura dei New Jersey in calcestruzzo. Il cantiere ha riguardato in particolare il tratto a 3 corsie tra San Giorgio e il nodo di Palmanova, che sarà interessato dalle 21 di oggi alle 5 di domani. Verrà interdetta al traffico la direttrice Udine-Trieste all'altezza del nodo di Palmanova. Restringimenti invece sempre all'altezza dell'allacciamento tra la 4 e la 23 saranno presenti per un tratto di circa 200 metri anche per chi proviene da Venezia ed è diretto a Trieste e per chi proviene da Trieste ed è diretto a Venezia, ma senza la chiusura dei rispettivi tratti. Per effetto di queste limitazioni, chi proviene da Tarvisio, Udine ed è diretto a Trieste potrà uscire a Udine Sud e riprendere la 4 al casello di Palmanova oppure potrà uscire al casello di San Giorgio di Nogaro. Esattamente 40 anni fa l'Italia vinceva il campionato del mondo di calcio, battendo allo stadio Bernabeu di Madrid la Germania per 3-1. Quella nazionale era guidata dal friulano Enzo Bearzot, originario di Aiello. Il capitano era un altro friulano, Dino Zoff, che alla 4ª presenza in un mondiale colse il risultato più importante della sua carriera. Una cavalcata trionfale, come ci racconta il portiere di Mariano del Friuli. Iniziato con critiche esagerate, fuori luogo anche verso Bearzot, e poi incontrando le squadre migliori, ma soprattutto fare dei gol bellissimi, ecco, i gol fatti in quella maniera che ha fatto la nostra squadra è quasi irripetibile. Ci può descrivere il legame che ha avuto con l'altro friulano protagonista di quel mondiale, cioè Enzo Bearzot? Ma sai, io la considerazione, il rispetto di Bearzot era immenso, ha avuto anche meno onori, meno gloria, però io che ho avuto esperienza anche di altri mondiali, io credo che solamente lui ci poteva portare alla vittoria. Lei ha raccolto anche un po' l'eredità di Berzotto, anche se un mondiale non l'ha vinto. Certamente è stato un maestro per me nei comportamenti, nel coraggio, nella visione delle cose, quindi certamente c'era molto da imparare. Sente ancora la popolarità, l'affetto della gente in questi momenti, come se questi 40 anni non fossero quasi passati? Ma io ne sento tantissima, ma soprattutto anche all'estero, perché mi arriva un sacco di posta tuttora, e quindi direi che ho sempre avuto una grande considerazione. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Mariano del Friuli, città natale di Dino Zoff, si appresta a celebrare la vittoria nel campionato mondiale di calcio del 82. Proprio Zoff era il capitano di quella squadra, una carriera memorabile che si ripercorre nella speciale Stanza dei Ricordi. La stanza dei ricordi nella casa di Dino Zoff a Mariano del Friuli conserva molte testimonianze del trionfo mondiale dell'82. Il pallone con le firme di tutta la squadra e naturalmente la maglia del portiere e capitano. C'è poi anche il telegramma con cui il presidente Pertini si scusa con Zoff per l'errore commesso nella partita a Scopone durante il ritorno in aereo che fece vincere gli avversari Bearzot e Causio. Anche la delegazione della città carinziana di Lönnfeld, gemellata con Mariano, è giunta per una visita. Il presidente dell'associazione Amici di Mariano, Ugo Carre. Dino Zoff ha partecipato a una partita dei nostri bambini contro i bambini di Mariano al vostro campo calcio, e lì ha proprio regalato lui a ognuno dei bambini una maglietta che ha firmato, e hanno ancora oggi questa maglietta a casa. Il sindaco di Mariano del Friuli, Luca Sartori. Con la banda, suonando, venimo fino qua a casa di Mario, che era il papà naturalmente di Dino, a suonare per ricordare la vittoria. Ci aprì le porte della cantina e offrì il vino a tutti. A collezionare con straordinaria passione tutti questi ricordi l'amico più caro di Dino Zoff, Felice Toffull, che ci ha lasciato lo scorso aprile, la figlia Alice Toffull Pettarin. Si sentivano spesso al telefono e mio padre raccontava le storie del paese, chi era morto, chi si era sposato. E durante una telefonata mio padre disse: lo sai che ti voglio bene, Dino. Ed in quel momento ho detto: ma guarda tu, ma ti sembra normale che lui voglia più bene a te? E ci siamo messi a ridere. Mariano del Friuli, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Trieste e lo Yacht Club Adriaco hanno celebrato due leggende della storia della vela mondiale con una sfida unica nell'ambito della prima edizione del trofeo Adriaco Invitational. È finita con un pareggio signorile la regata tra le due regine del mare, che hanno navigato elegantemente sulla superficie del Golfo di Trieste con una brezza di maestrale di 7 nodi su un percorso a triangolo composto da una bolina e 2 laschi. Sono Marisca e Tuiga, ospiti della Yacht Club Adriaco, 2 degli ultimi 4 esemplari ancora naviganti al mondo e rappresentanti di una classe che fu la massima espressione della vela da regata del primo ventennio del Novecento. Piero Fornasaro De Manzini, presidente di Adriaco. Una manifestazione che ha caratteristiche uniche tanto per la qualità della barca quanto per la situazione, perché poi abbiamo pescato la manta delle condizioni meteorologiche perfette, di un'atmosfera bellissima, assolutamente entusiasmante per tutti. Un momento felice per il club e felice per la città. Marisca è la più antica, varata nel 1908, di proprietà francese, ma ormeggiata a Porto Rose e custodita dal capitano Dan Polschak. Al timone, sua sorella Lara, titolo mondiale TP52 su Quantum. È una grande responsabilità, perché è una barca vecchia, una barca grande, una barca importante, e bisogna fare sempre tutto insieme con tutto l'equipaggio. Cosa significa per te questo momento? Questo per me è relax, altro è lavoro e questo è riposo. Tuiga, il nome dell'altra leggenda della vela, costruita nel 1909 sempre da William Fife, ora ammiraglia dello Yacht Club de Monaco. Luca Vola, dell'equipaggio della Tuiga. Manovrare questa barca bisogna principalmente oltre ad avere un minimo di conoscenze tecniche, metterci tanto impegno, tanta forza, perché tutto è esclusivamente manuale. Non ci sono winch, non ci sono rinvii, devi proprio usare la forza per manovrarli in ogni manovra. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dominio saudita all'Italian Bahia, gara motoristica internazionale disputatasi sui greti del Medun e del Tagliamento. Secondo il portoghese Ferreira e terzo il brasiliano De Souza. Il servizio di Lorenzo Lenarduzzi di Rai Sport. I favori del pronostico erano tutti per lui. Dopo l'affermazione del 2014 dello scorso anno, il saudita Yazid Al-Rawaji ha dominato dal primo all'ultimo metro la 29esima edizione dell'Italian Bahia Pordenone. Più veloce il venerdì sui 14 km del prologo, il campione del mondo in carica il sabato sul duplice passaggio lungo i 112 km del settore selettivo Zoppola non si è risparmiato, infliggendo pesanti distacchi che hanno reso quasi una formalità la tappa domenicale, ovvero 125 km del settore selettivo Dignano, in pratica lo stesso tratto del giorno precedente ma percorso in senso inverso. Il portoghese Ferreira a bordo della Mini John Cooper Works Rally e il brasiliano De Souza sul Can-Am Maverick completano il podio. Le novità di percorso e di format introdotte quest'anno dall'organizzatore Mauro Tavella hanno riscosso l'apprezzamento degli equipaggi e rilanciano le ambizioni di una gara unica e affascinante che si appresta l'anno prossimo a festeggiare l'edizione del trentennale. Una vittoria storica, l'Italia torna sul gradino più alto di una prova di Coppa del Mondo di mountain bike grazie all'impresa di Luca Braidot all'Enzeraide in Svizzera, arrivata dopo 4 anni di digiuno. La prova di cross country AS si è conclusa in maniera emozionante. Braidot, scattato dalla 5ª posizione conquistata venerdì nello short track, è riuscito a restare agganciato al gruppetto dei migliori. I due svizzeri, favoritissimi della vigilia, hanno cominciato ad attaccarsi fino a quando sono finiti per terra. Volata a 2 quindi, e a tagliare il traguardo davanti a tutti proprio il goriziano Braidot davanti a Hatterley. Comincia oggi alle 21 l'edizione 2022 di SAFEST, il festival organizzato dall'Accademia di Arte Drammatica Nico Pepe di Udine. La prima serata vedrà il debutto del neonato coro dell'Accademia, diretto da Marco Toller. Gran finale il 18 luglio con gli allievi della Paolo Grassi impegnati in una rappresentazione dell'Orestea di Eschilo. Diana Barilari ci racconta le novità e l'obiettivo del festival. Torniamo all'assetto originario, vale a dire in presenza con gruppi internazionali, scuole ospiti, stiamo parlando di studenti in formazione. Arrivano dalla Romania, dalla Svizzera, e abbiamo un docente ospite anche dall'Inghilterra, e abbiamo la fortuna di essere connessi a una rete di scuole di teatro che fa parte dell'UNESCO, dell'IT UNESCO, International Theatre Institute. Per cui avremo importanti scambi di esperienze formative, così diversificate, e a Udine saranno sotto la regia del nostro direttore, che è Claudio De Maglio, che si occuperà in particolare di tecniche di commedia dell'arte, questo come proposta di workshop che facciamo agli studenti stranieri. Poi loro ci presenteranno degli spettacoli ed ecco che viene stilato un calendario per tutta la settimana dall'11 al 16 di luglio in cui ci sono queste proposte dei gruppi esterni, le proposte di nostri allievi diplomati, e quindi cerchiamo di creare un ricco luogo di scambi e incontri, molto spesso utilizzando anche la lingua straniera. In particolare il 16 luglio avremo ospite questo docente inglese, attore e regista, Paul Goodwin, che ci presenterà un Macbeth di sua invenzione con l'accompagnamento di un musicista ucraino. Cinque per mille in 14.189 scelgono il Burlo di Trieste, questa è l'apertura del piccolo triestino. All'istituto infantile più di 713.000 euro, nella fotonotizia vediamo poi un'immersione subacquea, così l'oasi di Miramare fa da balia alla Pinna Nobilis, la nacchera di mare che sta tornando nelle acque del Golfo grazie proprio all'area protetta. In alto nella pagina Rizza a Lignano tra 70 giovani, ventenne ferito gravemente, e poi la pandemia, la quarta dose dose anche ai guariti. Omicron non va sottovalutata. Sulla destra le voci dei turisti che arrivano dalle altre regioni d'Italia e dall'estero per andare al mare a Trieste. Gli americani ai Topolini, Trieste si scopre meta balneare. Il Messaggero Veneto oggi in edicola, in apertura di pagina, un vademecum contro le truffe che si intensificano in estate, soprattutto a danno degli anziani. Sotto, in una fotonotizia, la sfilata degli alpini ad Asiago, senza le polemiche di quella di Rimini. Scendendo a piedi pagina, un titolo dedicato alla maxi rissa di Lignano. Tra i richiami di cronaca, l'addio a Franco Zorzetti, uno dei patriarchi del vino friulano. Colonna di destra, tutta dedicata a richiami di sport. In alto le parole di Dino Zoff, che dice: un mondiale come quello non tornerà più, riferendosi ovviamente a quello vinto dall'Italia nel 1982, e sotto, con tanto di foto, il titolo: un altro oro per Milan in Coppa del Mondo. Centrale a gas A2A è l'apertura del piccolo di Gorizia e Monfalcone. Il sindaco di Monfalcone, Cisint, prepara il piano B. Resto contraria, ma se l'impianto dovesse ottenere le autorizzazioni, lavorerò per garantire al territorio tutele e necessarie ricadute. Nella colonna di destra, da Gorizia, il rieletto sindaco Ziberna: niente deleghe distribuite a caso, solo lavoro di squadra. Sempre a Gorizia, protesta dei residenti, caserma del Fante piena di rifiuti e ratti, e poi il concorso internazionale di canto corale Sighizzi, che inizia domani. Tanti gli artisti invitati, che sono stati sistemati anche in Slovenia a causa dei pochi posti letto in città. Covid, Riccardi vuole il liberi tutti. In settimana la commissione è decisiva per convincere Roma allo stop ai tamponi a tappeto. Così il titolo principale della prima pagina dell'inserto del Gazzettino di Pordenone, che sottopassa la cronaca con la rissa di Lignano e il dramma della 72enne di Azzano, morto per un malore in montagna tra le braccia del marito. Due richiami nella colonna di destra, con in alto un appello per salvare il superbonus edilizio: ci sarebbe un miliardo a rischio. E sotto l'annuncio di treni e promozioni speciali per i concerti al San Valentino. Sport a piedi pagina, con l'arrivo per i neroverdi del Pordenone del corazziere Aieti al centro della difesa e la vittoria araba all'Italian Bahia. Diamo alcuni appuntamenti. Sarà presentato oggi il programma del Festival Nano Valbruna, che comincerà a Valbruna il 18 luglio. Per una settimana scienziati, imprenditori, docenti e professionisti parleranno di sostenibilità, tutela degli ecosistemi e soluzioni innovative a sostegno della green economy. Novità di questa edizione 2022 è il contest sull'economia circolare per la presentazione di idee sostenibili per il lancio di start-up innovative. Inaugurazione della mostra personale del pittore Bogdan Butković di Savonia, Lisonzo, alle 12 alla Galleria del Kulturni Dom di Gorizia. Al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia si inaugura oggi alle 18 la mostra Mirabilia, capolavori a confronto, la lampada del tesoro della Basilica San Marco di Venezia. Il cantante Mahmoud fa tappa questa sera al Parco San Valentino di Pordenone, in scaletta le canzoni più famose e brani significativi tratti dai suoi album Ghetto Olimpio e Gioventù Bruciata, tra cui Soldi, Rapide, Nillo nel Naviglio e Rubini. Un set essenziale trasporterà il pubblico nell'immaginario dell'artista, dai visual onirici e futuristici fino ai balli di Clan e Cobra. Prende il via Udine la 32esima edizione della rassegna Udine and Jazz, organizzata da Euritmica. Questa sera è in programma la proiezione del film Gli Stati Uniti contro Billie Holiday alle 21.30 ai Giardini Loris Fortuna di Piazza Primo Maggio. È il film che parla della vita della grande icona jazz degli anni 40. Da domani cominceranno i concerti. La Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi, città di Trieste, presenta il concerto Music Match che verrà allestito all'interno della rassegna Trieste Estate alle 21 al Castello di San Giusto. Nella prima parte un'alternanza di brani solo di musica orchestrale, nella seconda parte un omaggio al gruppo Pop Abba attraverso le principali pagine del musical chess. Continuano i concerti al Castello 2022 alle 18 al Castello di Kronberg di Nova Gorizia, concerto del Modern Ethno Trio sulle musiche del Re del Tango Astor Piazzolla, unite a una delle composizioni di Igor Stravinsky, divenuta icona del Novecento, L'Histoire du Soldat. Il giornalista e scrittore Francesco De Filippo presenta il libro Novax, il grande sogno negato, le opinioni di chi rifiuta la somministrazione e la risposta degli scienziati, alle 19 all'albergo Villa Tergeste di Trieste. Un incontro informativo pubblico sui defibrillatori che inaugura un percorso di formazione che prevede corsi specifici sull'uso dei dispositivi DAE. Si terrà a Civitale del Friuli, nella lavagna della scuola media piccoli, alle 18. L'Azione Cattolica di Gorizia organizza un incontro sulla crisi idrica e di cambiamenti climatici con il meteorologo dell'ARPA regionale Arturo Puccillo, Daniel Luis, direttore del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia, Giambattista Graziani, amministratore unico di Risacqua e Graziella Mocellini, rappresentante di Globe Italia APS, alle 20.30 nella sala convegni del Consorzio di Bonifica a Ronchi dei Legionari. Verrà presentato oggi a Trieste il libro La smonta la prossima, una vita in corriera, di Davide Destradi, alle 18.30 all'ex lavatoio a San Giacomo. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo GR1 alle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'edizione flash del giornale radio. A seguire il consueto appuntamento con VOF Evelindì, che parlerà della nuova ondata dell'emergenza Covid. Alle 11.20 andrà in onda la seconda puntata di La Radio che Pedala, un programma di e con Chiara Meriani e Maddalena Lubini sul cicloturismo in regione. Alle 11.55 la seconda puntata di Fotoradiografia, un programma di e con Roberto Leonetti e Piero Pieri, che porta ancora una volta l'immagine alla radio con 12 puntate dedicate al rapporto tra cinema e fotografia. I programmi regionali tornano poi alle 14. Ed era questa la nostra ultima notizia. Ha collaborato in redazione Manuel Bussani, per la parte tecnica Paolo Cassano e Federico Commar. Da Livio Liberatore e Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio a tutti di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.